È stata utilizzata una videocamera Hitachi DVD-RAM che registra appunto direttamente su DVD-RAM in file video compressi MPEG-2 e le clip sono state poi acquisite direttamente dal masterizzatore del PC con un software in dotazione che è il DVD Movie Album SE, a parte le primissime. Che fanno eccezione perché sono state acquisite dalla videocamera via cavo USB. E le clip con un altro software anche molto semplice, il Neo DVD Plus, sono state rinominate, assemblate, quindi non montate, non vedrete dei filmati montati, ma semplicemente delle clip assemblate. E poi sempre con questo programma è stato curato, almeno nell'aspetto, il menu. Ricodificate in segnale televisivo PAL, potrete vedere col lettore qui della biblioteca. E di ogni intervista sono state fornite 3 copie, di cui una per la consultazione, quindi rivolta a voi, una in conservazione e una personale che è stata per l'intervistato è stata consegnata via posta o manualmente direttamente all'interessato. La terza copia, beh, talvolta su richiesta dell'intervistato stesso è stata copiata su VHS anziché su DVD per esigenze personali. La qualità video è stata mantenuta identica all'originale, quindi in IQ, a parte l'unica eccezione che, per problemi tecnici, quella Jacob De Chirico, copiata su XP, su qualità XP, e qua avremo magari delle difficoltà a leggerlo con il lettore nostro, ma potrete semmai vederlo con il lettore del computer, quindi anche lì. Basta, più di questo non ci sono altre note tecniche da fornire, godeteveli e arrivederci, grazie. Ambarabacci Cicucosi. Parlare della storia orale italiana ha avuto uno svantaggio che è anche un vantaggio, cioè non ha avuto personalità fortissime, voglio dire, non ha avuto un Braudel della storia orale, non ha avuto un Marc Bloch della storia orale, e questo ha permesso, tutto sommato, che un grosso numero di ricercatori, sempre crescente, abbia fatto delle esperienze ampiamente personali al di fuori di precetti e di scuole. E è stato un gran vantaggio, anche se, secondo me, che non ci sia stato, per esempio, un'associazione di storia orale, che invece fondia più in questi giorni. Perché c'è una richiesta della Oral History Association, che è la Società Internazionale di Storia Orale, di creare anche un gruppo italiano che terrà la prima riunione, credo, il 27 di il 27 di questo mese. Sì, abbiamo avuto, come diceva lui, molte vicissitudini in questo nostro tentativo di rinnovare la storiografia italiana, perché in realtà di questo si tratta, e perché insomma, le istituzioni sono anche conservatrici, nell'università entrare un'idea nuova. Ci impieghi 112 anni, insomma, si accorgono dopo 112 anni che il clima culturale si è modificato. E quindi abbiamo avuto in parte delle difficoltà riguardo all'università. In parte delle difficoltà di carattere politico, perché in realtà questo filone, la storia orale, in Italia è nata all'interno chiaramente del movimento operaio e della sinistra. I primi storiografi storici orali, sia per ancora, come dire, bravissimi, ma essendo i primi anche molto ingenui, sono stati dei sindacalisti. Cioè, Rigola, che ha scritto una storia del biellese tenendo conto moltissimo delle testimonianze orali, e poi Tasca, il quale ne ha fatto ampio uso nel suo libro sull'avvento del fascismo, tenuto conto del fatto che però poi quello che lui aveva registrato e stenografato è andato, però dentro il libro queste cose si sente che lui le ha utilizzate. Nel dopoguerra, in maniera molto più ingenua e in maniera molto meno ingenua, abbiamo avuto Gianni Bosio, che era un militante bassiano socialista, direttore delle edizioni Avanti, che fu uno dei primi a utilizzare questo materiale. Poi piano piano il campo si è ampliato, oggi siamo diverse centinaia che fanno storia con le testimonianze orali, e naturalmente piano piano ci siamo anche, come dire, accorti di tutti gli errori che in gioventù abbiamo fatto facendo gli storici orali. Piano piano abbiamo imparato molte cose, e che cercherò in parte di darvi, no? Può essere intanto interessante ricordare una cosa, che questo, diciamo, chiamiamola così, dittatura della scrittura sull'oralità è una cosa nella storia dell'umanità abbastanza recente. Io adesso per esempio vi citerò, andando avanti, alcuni filosofi e storici greci, soprattutto greci o latini, o anche latini, perché sono ricchi di consigli utili per uno storico orale, proprio perché il loro rapporto con la parola, con l'oralità, era molto diverso da quello che possiamo avere oggi. Riguardo all'uso dell'oralità in storiografia, non va dimenticato che la radice stessa della parola, cioè vedo, ossia cose vedute, e che quindi la storia orale è nata con la storia stessa, e che tutta una serie di dicotomie, scusate se uso questa parola, non riesco a usarne una meno aulica, comunque voglio dire, distinguere l'uomo storico dall'uomo folclorico, distinguere tra storia, antropologia, etnologia e sociologia, o distinguere tra ricerca d'archivio cartaceo e inchiesta sul campo, e tra l'altro ora voleva proprio anche dire inchiesta, distinguere tra cultura scritta e cultura orale, sono in larga parte cose che si sono affermate con l'avvento della stampa, della divisione del lavoro, della nascita degli stati moderni come separati, e ahimè, come sappiamo un po' tutti, molte volte nella loro pratica proprio contrapposti anche alla società. Sono insomma delle dicotomie prodotte dalla divisione in classi moderne della società, e sono delle dicotomie, delle partizioni che hanno, credo che anche in questo, la difesa ad oltranza degli storici che io chiamo dimezzati, che utilizzavano solamente le fonti scritte, come se poi fossero come se poi fossero il verbo, perché piano piano ci siamo anche accorti che le fonti scritte che questi utilizzavano erano proprio affrontate da loro ingenuamente, mentre noi all'opposizione costretti ultra criticati, costretti a fare le cose il più giustamente possibile, credo abbiamo dato un grosso contributo in questo secolo all'esame dei documenti, all'analisi dei documenti, tutti, sia scritti che orali, no? C'è anche da dire ancora di qualcosa in più, che per greci e romani lo studio dei costumi e la cultura orale stanno proprio alla base della storia, cioè Erodoto, Tucidide, Polibio, Tacite, le dicotomie di cui parlare, di cui parlavo proprio, non le conoscono. Per cui spesso nei classici della storiografia antica moderna e anche nei filosofi ci si imbatte in consigli e intuizioni che sono molto importanti per gli storici orali. Vorrei ricordare qui, naturalmente mi sto perdendo in mezzo alla cultura scritta, vorrei ricordare Platone. Ecco, Platone, ad esempio, è quello che sostanzialmente teorizza quale debba essere il nostro approccio iniziale proprio verso la fonte orale. Perché la memoria ha delle insidie e domanda in questo nel Teeteto: credi tu che sopravviva in taluno il ricordo di un'impressione già provata? Impressione già provata, la quale sia la stessa cosa di codesta impressione nel momento in cui quel tale la provò, quando non la prova più. Cioè vuol dire, quando io ricordo una cosa e ricordo un'impressione, questo fatto di ricordare questa impressione, è quell'impressione la naturale? E lui dice giustamente no, certamente è qualcosa di diverso, è la memoria di quella impressione. E questo ci pone già di fronte a un problema irrisolubile della memoria, che è sempre il presente di qualche cosa che non c'è più. Un non sapere del sapere, un non sapere del passato. D'altra parte, questa rappresentazione del passato è l'unico mezzo a disposizione per farlo rivivere. E quindi, oltre a essere esposto alle minacce di dimenticare, presenta anche altre difficoltà ben note all'antichità. Perché appunto Platone continua e dice: credi tu che chi si va dissomigliando, che chi sta mutando se stesso, continui a essere lo stesso di quello che era prima di mutarsi, e che anzi costui sia uno solo e non molti, sempre che si generi cambiamento? E questi sono problemi fondamentali per entrare nel discorso che poi faremo della memoria. Insomma, siamo gli stessi che eravamo 30 anni fa? La nostra memoria è la stessa o non ha subito modificazioni di quando pensavamo, magari, che la storia del PCB dell'Urso fosse un testo fondamentale per il comunismo? E continua, e tra l'altro fa altre osservazioni che devi sempre tenere presente. Dimostra, se puoi, che in ciascuno di noi non si generino sensazioni che sono affatto individuali, del tutto personali, ovvero che come affatto individuali o ne segua che ciò che appare a ognuno, o se bisogna servirsi del verbo essere, sia tale, non solo per colui a cui appare. Cioè, qui il discorso è, la vediamo tutti allo stesso modo, o viceversa ci sono delle sensazioni così individuali che non possono essere, non possono essere considerate collettive, la memoria collettiva e i ricordi collettivi di Holbwachs, no? Per cui le rappresentazioni collettive vengono fatte proprio dai singoli, comunque, che le vivono e raccontano con delle peculiarità assolutamente individuali. Tanto più che, e questo è un altro problema di non poco conto, insomma, all'ammalato i cibi paiono amari, e sono amari, mentre a chi è sano spesso paiono gradevoli. E d'altra parte, né perciò l'uno può essere considerato più sapiente dell'altro. Sono due modi di vivere una situazione. E quindi, ecco, devo dire che siccome ho un quarto d'ora, vorrei affrontare un problema che è un problema centrale, soprattutto visto che qui ho una serie di persone che bene o male, anche se portano gli anni molto bene, hanno sicuramente la mia età. E per cui vorrei ricordare, partire proprio da una cosa fondamentale, che memoria e storiografia, detto appunto quale può essere l'atteggiamento che uno storico orale deve avere come base di fondo nei confronti di questi materiali, che memoria e storiografia sono delle cose molto diverse, anche se secondo me una buona storiografia deve cercare di avere rapporti più che con la memoria, con le memorie, perché ne ha tante di fronti, e forse anche delle buone memorie devono avere dei rapporti con la storiografia. E perché? Perché sono una cosa diversa? Perché proprio rappresentano punti di vista diversi sul passato. La memoria di un gruppo, qualunque sia questo gruppo, fa le sue selezioni, ha le sue censure e fa le sue invenzioni. Quelli, per esempio, primo esempio che mi viene in mente proprio perché per me è stato macroscopico, molti che avevano fatto la guerra in Jugoslavia durante la Seconda Guerra Mondiale e partecipati indiscutibilmente a rastrellamenti, mi hanno sempre raccontato, non sempre per fortuna, ma quasi sempre raccontato queste cose in maniera idillica. Se ci sono state non c'ero, però proprio anche con l'impressione che una serie di massacri che pur ci sono stati totalmente obliati, proprio cancellati dalla memoria. E molte volte l'impressione è che questa operazione sia proprio un'operazione in buona fede, perché beh, insomma, è difficile ricordare e affrontare il proprio passato per ciascuno di noi, e lo è particolarmente in caso di ricordi che sono poi ricordi, magari non sul momento, ma comunque divenuti traumatici, di ferite, che sono anche ferite affettive. Poi naturalmente, per fortuna, dico, c'è l'eccezione, per fortuna per lo storico, c'è l'eccezione che ti racconta le cose più incredibili, anche queste da sottoporre ovviamente a un vaglio critico, ma è che ti permette comunque di accedere e di capire che qualcosa è successo in Jugoslavia. Però quando poi tu, come storico, hai di fronte una serie di fonti e tieni conto di tutto quello che ti è stato raccontato e cerchi la strada della tua verità, metto verità tra virgolette, allora tu trovi di fronte una serie di persone che ti hanno aiutato nella ricerca, che sul momento si inalberano e ti diventano nemici. No, sì, perché gli presenti un rimorso intollerabile, oppure anche in casi meno gravi di quello, per esempio, di deportati ebrei che hanno spesso dimenticato interi episodi della loro vita e che magari avendo scritto, e questo è un altro aspetto, dei diari in campo o immediatamente dopo la loro esperienza, dicono non li ho scritti io, queste cose non sono avvenute, non me le ricordo e quelle cose. Quindi questi sono alcuni dei problemi che stanno di fronte. Io ho avuto un'esperienza un po' particolare con un libro che si chiama Pagine di Guerriglio. A un certo momento, nel 1965, sono stato incaricato da una sezione dell'ANPI di fare la storia di una brigata partigiana a Grignasco, nel Novarese. E ho cominciato a registrare questi partigiani. Avevo anche a disposizione 40.000 documenti, perché in Valsesia erano straordinariamente ordinati. Una parte ne hanno persi, qualcuno lo hanno fatto sparire nei momenti della repressione shelbiana, però nel complesso questo materiale c'era. E ho cominciato a registrare, avendo letto libri sulla Resistenza in Valsesia, i partigiani. Beh, prima situazione di un giovane un po' inesperto è uno shock, perché allora i partigiani non avevano più avuto occasione, parlo nel 65, prima del centro-sinistra, eccetera, 64-65, non avevano più avuto occasione di parlarsi tra di loro di queste storie. E quindi queste storie, per esempio, venivano fuori in un modo che sarebbe sicuramente diverso in ognuno di loro, o in molti di loro, perché poi la memoria di ognuno ha delle sue caratteristiche, ma in molti di loro da quello che mi racconterebbero adesso. Perché? Perché queste storie se le sono raccontate 2424 volte dopo il 1965 e quindi mutano in modo diverso. Ma la cosa interessante era intanto scoprire che i libri erano una cosa risibile, nel senso che non ce n'era una giusta, non erano giuste le date. Voglio dire, qualche volta pazienza, se le date non sono giuste non è importante, ma qualche volta se per esempio tu racconti che uno sciopero è stato fatto mentre c'erano i tedeschi, è una cosa. Però se tu racconti che questo sciopero è stato fatto mentre c'erano i tedeschi e invece c'era la zona libera, per esempio della Valsesia, voi capite tutti che comunque ha un'altra valenza, è un'altra cosa. E di questi errori a piene mani. E poi anche facendo delle esperienze curiose, perché di solito quello che noi raccontiamo a distanza di anni, beh, qualche volta i racconti si fondono, qualche volta li spostiamo di epoca, magari di un mese o due, eccetera. Ecco, ho potuto però verificare, quasi sempre le date sono sbagliate nei racconti, nelle testimonianze orali. Ho potuto verificare viceversa che poi esistono anche delle eccezioni. Questo per dire che bisogna sempre andare coi piedi di piombo. Per esempio, c'era una signora che è un po' che non ha fatto la resistenza, era giovane allora, ma era un po' la cronista quella che proprio è ancora un vero reduce, nel senso che non si è mossa di là, quando allora, come se fossero successe pochi minuti prima, no? E mi diceva: no, guarda, questa grande battaglia partigiana, che fu la battaglia quando i tedeschi vennero su e finì la zona libera della Valsesia, è avvenuta il 3-5 luglio. Io mi aggiravo tra monumenti, lapidi, gli stessi documenti partigiani stilati alla macchia durante la fuga, che tutti parlavano di questa battaglia al 3-4 luglio. Beh, voglio dire, se non avessi avuto altri documenti sarei stato portato proprio a dire che era il 3-4 luglio. Viceversa, a un certo momento mi è venuto in mente di andare a vedere i documenti tedeschi, perché, come spiegavo a lui, per esempio per me, vabbè, sono uno storico, per me arrivare a Bolzano e vedere con tutta questa enorme precisione le fatture, ecco, è un'esperienza che per me, che vengo dal Piemonte, è un po' scioccante, no? E così, viceversa, ho potuto constatare che in questa precisione dell'esercito tedesco le battaglie erano, sui documenti in Germania, erano al 3 e al 5 luglio. Dico questo perché è una delle cose più che verifichi continuamente, è che non c'è c'è un numero di date sbagliate proprio sugli eccidi, sulle lapidi, è enorme. Può avere importanza, può non avere importanza. Per uno storico ha molta importanza. Ecco, questa collisione tra storia e memoria, mi scuso perché il tempo è il tiranno, quindi moltissime cose vi vorrei raccontare, non ve le racconto, a volte ha dato in questo periodo vita a veri e propri drammi per le normative che si sono imposte, per esempio a livello europeo, le normative sui crimini contro l'umanità, eccetera. Perché qui veramente avvengono cose dure. Non parlo di Irving, di cui sapete tutti, questo storico inglese un po' fascistello, ma comunque che ha il diritto di dire la sua, secondo me, che a un certo momento viene condannato in Austria perché 10 anni fa ha detto alcune cose a proposito. Ma per esempio in Francia recentemente è successo che i bisnipoti dei bisnipoti dei bisnipoti degli schiavi hanno deciso di portare in tribunale uno storico che, utilizzando i mezzi che aveva a disposizione della storia, ha scritto anche proprio un bel libro dimostrando che sì, la tratta degli schiavi da parte dei bianchi c'era stata, ed era consistente, di milioni, comunque consistente, ma era nettamente inferiore alla tratta degli schiavi fatta dai paesi, diciamo, musulmani, o anche dall'Africa. Beh, questo è stato portato in tribunale e di questi casi probabilmente ne succederanno anche molti, perché un'altra delle normative, questo c'entra meno ma un'altra delle normative è l'appropriazione della memoria altrui. Per cui, voglio dire, se io nel 1965 intervistavo la signora,